La disperazione sociale può produrre situazioni di estrema difficoltà. Una l'abbiamo già vista, è stata scandalosamente ignorata, la rivolta nelle carceri. In 2 giorni abbiamo avuto 15 morti. Mi interessa poco che questi morti siano avvenuti perché hanno scassinato le farmacie e siano morti di overdose. Erano affidati allo Stato e protestavano ed erano affidati allo Stato. Quando mai in Italia, dal luglio 1960, ci sono stati 15 morti per una protesta sociale? Possibile che questo non sia stato visto come un segnale d'allarme gravissimo da parte di tutti noi? Forse che i carcerati, i detenuti, sono dei sottouomini le cui condizioni non contano? È assolutamente gravissimo, è la rimessa in discussione della nostra civiltà. I detenuti sono persone dotate di tutti i diritti delle altre persone. Sono momentaneamente recluse perché questo fa parte di un percorso di recupero alla società. Se invece sono punizioni odiose, allora siamo al Medioevo e allora diciamoci che la nostra civiltà è saltata. Un altro aspetto fondamentale è il peso della storia. Non si dà alcun peso, alcuna importanza alla storia. So che è stupefacente. Perché la Cina e la Corea hanno avuto tutto sommato un numero di casi limitati? La Corea è partita, è arrivata a 8.000, poi si è bloccata a 8.000. La Cina è arrivata a 80.000, ma su 1.300.000.000 di abitanti. Noi l'abbiamo già superata e abbiamo 66 milioni di abitanti. E com'è possibile? Questo è il primo dato storico. La Cina e la Corea avevano sperimentato la SARS. La Cina e la Corea avevano previsto delle grandi epidemie. Perché noi non l'abbiamo previsto? Noi sapevamo già dal 2002 che le nuove epidemie virali sarebbero state pericolosissime. Avevamo già detto e scritto che potevano arrivare a colpire anche le ricche, floride società occidentali. Abbiamo avuto anche un medico che è morto contrastando la SARS a suo tempo. Quei paesi avevano chiara nozione di cosa sarebbe stata la prossima epidemia e l'hanno contrastata in modo molto valido. Un secondo aspetto: le epidemie sono parte della nostra storia. Dal VI secolo in poi, noi per 1400 anni abbiamo avuto epidemie. Il fatto che negli ultimi 60-70 anni ce ne siano state poche in Italia e comunque poche a livello nazionale non vuol dire che noi non sapessimo questo. Noi abbiamo avuto ogni 8-10 anni un evento epidemico per 14 secoli. Nel Novecento meno, intanto abbiamo avuto la spagnola nel 1918, poi abbiamo avuto delle altre ondate epidemiche di influenza. Abbiamo avuto il colera, ricordo, nel 1973. Abbiamo avuto le grandi ondate di poliomielite. I più anziani ricorderanno quando da bambini ci terrorizzavano prospettandoci il pericolo della poliomielite. Quindi in realtà è passato poco tempo e questa è una cifra dell'ansietà. Ora, questo indica ancora quanto è debole la politica e purtroppo anche la cultura italiana, se bastano pochi decenni di benessere per dimenticare e ignorare tutto e buttare a mare la propria capacità di reazione. 100 anni fa, alla fine della prima guerra mondiale, l'Italia doveva gestire 700.000 prigionieri austriaci. 700.000 persone dove si mettono? 500.000 invalidi gravi di guerra, 680.000 morti, le cui famiglie ovviamente si trovavano quantomeno in sofferenza psicologica, ma molto spesso anche in grave sofferenza materiale, e poi abbiamo avuto la spagnola, 800.000 morti. 100 anni fa, 4 generazioni fa. In 4 generazioni abbiamo dimenticato tutto? Ma allora che amministratori abbiamo? Come fa un amministratore pubblico a non avere avuto un passaggio di consegna dalla generazione precedente e da quella precedente ancora su queste calamità? Che non sono calamità, sono cose che sono state misurate, sono cose che sono state calcolate, sono cose che sono state discusse in Parlamento, che sono state discusse negli organi. Rizzoli di Bologna è diventato importante nella prima guerra mondiale per la grande quantità di mutilati da congelamento e da esplosioni dell'artiglieria. Ecco, tutto questo dimenticato? Tutto questo buttato a mare? Francamente è molto grave, anche perché quella emergenza era un'emergenza che ha segnato profondamente la società. E oggi cosa resta di tutto questo?